Eccoci qua con Miso Segone Ask the Maker. Siamo tornati purtroppo per voi. Quinto episodio. E nonostante le false promesse, non abbiamo chiuso perché abbiamo avuto una segnalazione anonima di Marius su un nuovo game maker che sta spopolando. Fortunatamente è italiano, quindi meglio di così. In questo episodio c'è Variopunk e Rixka. Perché Scarde Punking ha un singhiozzo letale e Vabbè. Gira non è pervenuto. E il nostro ospite di oggi è, come si può annunciare, il tenebroso Mad di My Madness Work. Salve a tutti, giorno. Ok. Mad è un game maker attivo. Perché inizio sempre così? È un game maker attivo nell'ambito di game maker. È giusto. Questi due termini maledetti che vanno a conflitto tra loro. E in questo momento è all'apice della popolarità sul web grazie al suo ultimo gioco uscito che è I'm Scared, che probabilmente ho pronunciato male, ma il mio inglese sapete com'è. No, no, no, va benissimo. I'm scared, tutto attaccato tra l'altro. Tutto attaccato. E prima di I'm Scared ha rilasciato anche un altro gioco che è One Day the World. Quindi iniziamo subito a tartassarlo di domande. Direi di iniziare con la genesi del game maker. E quindi, Mad, come hai iniziato, come hai intrapreso la via di questo mondo? Questo sport pieno di alti e Oddio. bassi. Oddio, bisogna fare un bel salto nel passato. Ho Siamo qui cominciato per a questo. Ho cominciato a 12-13 anni, quando c'era ancora Game Maker 5, non mi ricordo precisamente che anno era. E adesso quanti anni hai? Adesso ne ho 20. Ah, dai, 7 anni fa, quindi dai, 8. Sì, qualcosa del genere, solamente che al tempo, appassionato di Mega Man come ero, cercavo costantemente di fare un clone o qualcosa del genere comunque, no? Sì. E niente, non facevo altro che scaricare files di game maker altrui, spulciarmi i codici, cercare di capire qualcosa e no, non funzionava proprio. Il game maker un po' ostico all'inizio. Inizialmente sì, cioè quello che facevo in fin dei conti era solamente modificare sprite, provare a fare sprite e simili. Poi niente, lentamente ho lasciato perdere. Perché mi sono appassionato al fumetto e ad altre cose. E già ho ripreso. Sento un po' male, sai. Va Un bene? po'. L'ultima frase non si è sentita, cioè si è sentita strana. Ah, brutta cosa. Scusate per il microfono, ragazzi, ancora. Vai. Semplicemente ho lasciato perdere per molto molto tempo e solo un anno fa ho ripreso a creare seriamente. Studiando il manuale stavolta. Quindi Cos'è che hai t'ha avuto. portato a ricominciare a fare videogiochi? Oddio, tecnicamente devo tutto a Terry Cavanagh, l'autore di Don't Look Back, Via la Sesta e ultimamente cosa ha realizzato? Ha fatto Hexagon, Super Hexagon. Non ne conosco neanche uno. Ed è un male perché te lo consiglio vivamente, guarda. I Ci do giochi di nota. Terry sono meravigliosi. Infatti, se mai giocherete a Don't Look Back, noterete che l'inizio è molto molto molto uguale a One Day, una dedica proprio spassionata. E niente, tutto qua. Quindi ho ripreso in quel modo, tra vapore, progetti bocciati ed altro, e lentamente sono arrivato a One Quindi in mezzo c'è stato un buco di inattività. Day. Un enorme buco, devo dire, sì. Purtroppo è così. Quando si è game maker ci si deprime in fretta, soprattutto quando non si riesce a programmare quello che si vuole programmare. No, ma è anche perché avevo un attimo bollato la passione del videomaking come superflua, pensavo inizialmente, ma avevo provato a nasconderla perché tanto avevo il presentimento che non mi avrebbe portato da nessuna parte. Invece amo questo mondo, gente, lo adoro, è bellissimo. Qualcuno che ci crede ancora esiste, visto? Ma Non sono guarda, secondo me tutti anzi stanno. vecchi rompipalle come me. No, no, secondo me anzi ultimamente il making italiano sta, cioè sta nascendo più che altro, perché il making italiano è sempre stato un po' zoppo. Cioè, abbiamo, cazzo, abbiamo menti geniali, eppure c'è così poco nel corso degli anni di nostro. Sì, il problema è che se vuoi fare un gioco ti conviene quasi andare all'estero, quindi magari anche se è un italiano non lo vedi perché se ne va all'estero. Esattamente. E il bello è proprio questo, che ultimamente tra portali come Game Jolt, Steam e tutto sto genere di cose, chiunque può affermarsi. Sì. E, cioè, si creano possibilità ed è bello. Questo penso sia il momento giusto per cominciare a darci giù. Infatti, 5 anni fa, quando ho iniziato, un po' vedevo la scena. Bene o male, la gente faceva un gioco, poi spariva. L'unico continuo era Dark Leo, che sono 10 anni che continua a fare i suoi giochi. Sì. Dark Leo e Lionsoft. Sì. Bello, bello, lui sì. E tipo dall'anno scorso, invece, in Italia sono spuntate come funghi appunto questi gruppi di... È una cosa più recente, in Italia c'è sempre stato una produzione discontinua, invece adesso sta proprio iniziando a nascere il movimento anche qua da noi. Vero. Io spero solamente che tutti non cerchino di cavalcare Che? l'horror stile Yumenichi. No, Perché ho visto che molti prendono RPG Maker e cominciano a crearsi pseudo Yumenichi un po'. Lì è perché è quello che tira sul momento. Adesso purtroppo vanno di moda i telefilm come Walking Dead e le cose di vampiri. Quindi l'horror, anche se appunto il gioco di cui parli te è horror vero, non è sta robaccia. Adesso l'horror va di moda, quindi tutti cosa fanno? Fanno horror. E va di moda anche la pixel art. Comunque lavorare con i pixel grazie ai nuovi giochi, dai, quelli per Android e roba varia. E quindi mi mescolano un po' le cose, dai. Beh, sì, è vero, la pixel art ultimamente la vedo molto molto più spesso. È tornata Sarà che molto. io, proprio anche grazie all'amore che ho per Mega Man e per Don't Look Back di Terry Cavanagh, sarà che l'adoro per quello, non lo so, ma è sempre stata una cosa splendida, secondo me. Sì. Però adesso anche commercialmente vende. Sì, è vero. Cioè, il gusto del pixel è tornato. È vero, è vero. Però, comunque, la differenza tra chi ama i giochi vecchi e invece chi ama fare soldi facilmente si vede. Ma io penso che quando un gioco è fatto con amore si vede. Sì, Cioè è palpabile sicuramente. la cosa. Sì. Soprattutto perché si antepongono i gusti personali a piuttosto che le scelte commerciali. Sì, io dal canto mio posso dire che non riesco tuttora a figurare un mio gioco in vendita. Per farti un esempio, cioè la semplice idea di mettere qualcosa in vendita mi fa strano. Però, come hai visto, se Aimscared fosse in vendita, adesso avresti il portafoglio un po' più pieno, mi sa. E secondo me invece se Aimscared fosse in vendita non sarebbe stato giocato così tanto, perché te l'ho detto già, cioè non, neanche pensavo avrebbe fatto sto boom. Beh, forse sì, però comunque ti ha consolidato. Un secondo gioco invece adesso andrebbe meglio, no? Esatto, molto probabilmente adesso se ti conosce un secondo gioco ti farebbe fare comunque soldi. Però penso di non meritare ancora soldi, guardate. Ma sì, no. È una scelta Quella non è assolutamente scelta tua. condividibile. Condividibile. Condiviso era troppo difficile. No, no, no. Ma Tu non perché? condividi questa idea? Condividibile è più bello, va bene? Ecco. Va bene. Allora, quindi abbiamo parlato della Genesi, parliamo dell'Esodo adesso. No, vabbè. Quindi, volevo chiederti, invece, i giochi che ti hanno ispirato. Già ci hai anticipato che nel panorama, diciamo, commerciale dell'infanzia c'è Mega Man. E nel panorama più indie c'è quel tizio che hai nominato prima, che purtroppo non mi ricordo il nome. Non voglio offendere, ma non mi ricordo il nome. Non preoccuparti. Sì, a parte loro. Non saprei, guarda, giusto ultimamente ho adorato alla follia, cioè ultimamente, da un bel po' ho adorato alla follia Cave Story, che reputo una perla dell'indie, anche se molti adesso lo reputano commerciale, ma io sinceramente penso che dopo 4 anni spesi su un gioco una persona meriti un attimino di fama. Non ho capito il nome del gioco. Cave Story. Cave? Cave Story, non lo conosci? Non capi la prima parola, non capisco. Cave. Sono vecchio. Lotta. No, allora, story è la seconda parola, la prima parola? Cave, cave. Caverna, ok, ok. Scusa, ma veramente non ti riesco a capire. Lo so, è colpa del microfono, scusate. No, no, le parole le sento, ma non riuscivo a capire. Ecco, lo vedo. Cave Story, mai sentito per... Vabbè, ma io dell'indie so poco, so solo del freeware, comunque. Ma Cave Story è freeware. Infatti, del freeware ancora, la maggior parte sono free. E allora, guarda, te lo consiglio quasi quanto Don't Look Back, Cave Story, perché è meraviglioso. Cavolo, questo è freeware? Cavolo. Sì, sì. Cave Story, però attenzione perché ci sono diverse versioni. Sì, ho visto che c'è anche quella per il 3DS. Cioè, quella 3DS e quella Wii che sinceramente io non... Bah, non mi piace. Ok. Sì, sì, quindi, sì. Sì, direi Cave Story e... Punto che ce sarebbero così tanti... Che poi... Quale dire? Mi sentite? Sì, però la tua ultima frase non l'ho capita. Ho detto, ci sarebbero così tanti titoli che proprio non saprei da dove cominciare. Quindi, non so. Cioè, i videogame in generale. Ma invece le tue tematiche e il tuo uso, diciamo, delle... Il tuo uso cinematografico... delle inquadrature, dei momenti, dei giochi, perché dopo ne parleremo un po' meglio. Invece da dove viene? Oddio, non so precisamente da dove viene. È semplicemente che io penso il videogioco possa contenere qualsiasi cosa. Ed è per questo che reputo i videogiochi splendidi. Un videogioco può avere dentro quello che è un fumetto, che è un film, che è un cartone animato. È versatile a livelli pazzeschi. Sì, sì. Quindi non sei un amante dell'horror in particolare? Io adoro l'horror. Ok, bene. Io sono cresciuto con l'horror e anche per questo ho creato Amscared. Ecco, allora se qui siamo sulla stessa onda. Però te non hai fatto videogiochi horror? No, è vero, perché io il mio stile di disegno è troppo comico per essere horror. Potrei provare. Sì, è vero anche quello. Suonerebbero poi... quindi... Sai, avendo visto un migliaio di film horror e passa, ho visto tutto troppo navigato. L'horror non riesco a trovare. No, io non ce la faccio io personalmente a trovare delle nuove storie horror. Ma guarda, l'horror, cioè io creando I'm Scared mi sono accorto che creare un gioco horror è difficile, è veramente difficile. Sì. Cioè, perché mentre lo creavo lo facevo provare a determinati amici e tutto quanto, no? E non riuscivo a spaventarli. Tant'è vero che pensavo I'm Scared non fosse inquietante per niente. Ma adesso... No, ve lo giuro. Quello lì è il solito problema, che le opinioni esterne servono per capire cosa se quello che stai facendo sta raggiungendo gli obiettivi. Sì, però bisogna farci condizionare totalmente dalle opinioni esterne. Beh, dipende anche, da chi lo chiede. Anche perché tu lo fai provare a due persone. Devi contare che qua siamo una qualcosa come 5 miliardi di persone. Ogni persona potrebbe pensare in un modo diverso. Sì, però dipende da chi lo chiedi. Devi chiederlo a persone che conosci, perché affidarsi troppo alle comunità. Nelle comunità il 50% è fatto. Ma neanche, devi provare a confrontare entrambe le opinioni invece. Perché sì, le persone che conosci magari ti dicono: ah, ma è bellissimo il gioco, anche solo per non deluderti, diciamo. E magari le comunità invece sono contrario, tentano di smontarti per loro piacere personale. Esatto. Quindi invece devi. Però non sono tutti così. Con Amscared ho avuto il problema opposto invece, perché gli amici non si spaventavano proprio per. Quindi conoscendomi non riuscivano a entrare nel gioco. Dicevano: ah, vabbè, quello l'ha creato Ivan. Ah. E giocavano. Ma infatti bisogna anche vedere, cioè, questa cosa qui è molto soggettiva, cioè tipo andare così, ma tipo andare al contrario, come è capitato anche a te. Sì, certo. Sì. È strano. Quindi dipende invece... di pure quello che stai dicendo. No, io non stavo dicendo niente. Ok. Continuate pure. Quindi parlando dell'horror, qual è il tuo sottogenere horror, il tuo regista, il tuo film preferito? Non ho sottogeneri o registi preferiti, ma adoro il film horror che si incentra più sulla parte psicologica, sull'aspetto psicologico. Quindi quando ci sono fiotti di sangue a buzzo, proprio non, no. Ah, ok. Lo splatter Non mi spaventa, italiano non no. riesce a spaventare, cioè lo splatter non spaventa secondo me. E neanche i film che tentano costantemente di spaventare, con, che ne so, gli scary pop-up o roba del genere. Quindi preferisci più più Hitchcock per dire, tanto per. Più o meno. Penso che il fattore psicologico sia una colonna portante, come il sonoro, come l'atmosfera del gioco, o comunque dell'horror in sé. Se una Beh, cosa riesce a creare atmosfera, allora ha la possibilità di spaventare. giustamente l'horror psicologico è considerato un genere a parte, infatti, perché È pure giusto perché è splendido. sì, perché comunque cavalca su binari diversi dagli altri horror. È vero, è vero. Infatti comunque si sente molto nei tuoi giochi che è la psicologia che conta. Quindi. Invece, parlando della produzione di One Day the World e I'm Scared, hai qualcosa da raccontarci in particolare? Tipo, hai avuto problematiche? Il gioco Guarda, problematiche poteva non uscire perché non c'è. Boh, non so, non saprei. riguardo l'uscita del gioco no, anche perché mentre li creavo mi reputavo relativamente soddisfatto dell'operato e quindi dicevo va bene, non diventerà vapore, riuscirò a tirare fuori sto gioco ed è grazie anche alle competizioni di Game Maker Italia che ce l'ho fatta. Cioè fino ad ora, a parte Collapse Collide, che è giusto un progettino tirato avanti in 4 giorni, gli altri giochi che ho fatto sono frutto di competizioni. Infatti Quindi niente. nel tuo sito non li ho visti questi altri giochi, a parte un progetto che non è ancora finito. No, cioè, vabbè, a parte di lei, ma che quello non voglio farlo diventare vapore, ma è comunque un progetto che ancora dovrò remarci parecchio. Ho fatto ultimamente Collapse Collide. Cioè, l'ho fatto tipo 2 settimane fa, qualcosa del genere. Ma è un gioco molto breve, durerà all'incirca 5 minuti. Io nel tuo sito vedo slime e gli altri due. Questo qua, no, non lo vedo. Ma Sono su parlo. quello su Altervista. No, no, guarda, la pagina Altervista la sconsiglio a tutti perché non odio Ah, Altervista. ok. Quindi devo andare su Facebook. Quindi o Facebook o GameJolt. Ah, ok, perfetto. Allora, ecco GameJolt perché non almeno l'avevo sa visto. cos'è. Veramente bello GameJolt. Io purtroppo con GameJolt ho problemi perché il limite di upload è 100 mega, io lo supero sempre praticamente. Ma tu con cosa produci? Il più delle volte con Adventure Game Studio. Ah, non l'ho mai provato. Potrebbe. No, dipende. Dipende da cosa vuoi fare. È per le avventure grafiche, però in teoria puoi farci qualsiasi cosa. Io poi amante dei platform trovo Game Maker Eh semplicemente sì, Game Maker è la manna per i platform. vero. Io ne ho fatto uno con RPG Maker, ma. No, RPG Maker per i platform, a meno che non conosci bene il codice. Si fa, però viene un po' legnoso. Io guarda, faccio sempre un passo indietro quando si parla di RPG Maker perché non lo so. Non riesco proprio. Non mi piace. Ecco, l'ho trovato con Collapse Collide, bene, bene. Dopo, questo non l'ho ancora provato perché non sapevo della sua esistenza, avendo cercato tutto. Io Facebook non lo uso e quindi avevo visto Allora, il tuo sito. guarda, piccolo consiglio, non so se hai bestemmiato con One Day the World, ma se giochi a normale su Collapse Collide, preparati alle bestemmie. Sì, ho bestemmiato ed era anche mezzanotte e quindi hanno sentito. Quindi ho disturbato il sonno di molte persone. Allora, fortuna che ha giocato ok, perché Il boss finale sempre. al merito più di tutti. Il boss finale è la battaglia più brutta che sia stata mai concepita al mondo e chiedo umilmente perdono. Se non bestemmiate, bestemmierete. Se bestemmiate, inventerete un nuovo tipo di infezione. scusate, guarda, spero di fare qualcosa di buono con One Day Retold. Ok. Ecco appunto, visto che parlavi di Games Vault, ho visto che principalmente diciamo, la tua distribuzione è stata organizzata sui portali come IndieDB, Games Vault e Frank Expo. Parla un po' di questi portali. Ma guarda, tutti e tre quello che meno preferisco è IndieDB. Lo trovo scomodo. È molto scomodo, richiede misure particolari per le immagini, bisogna editare il testo in HTML, non lo so. Frank Expo invece è molto comodo, spero infatti che venga riconosciuto da più persone, perché è bellino veramente. E Game Jolt lo adoro. Game Jolt è veramente comodo. IndieDB l'ho conosciuto grazie a te, infatti. Ieri ho lavorato tutto il giorno per inserire tutti i miei giochi e ti do ragione, ho dovuto lavorare su Photoshop con un sacco di immagini per... È quello il problema, cioè proprio io lo trovo scomodo, è bello come portale ma è scomodo. Ha una cosa però, queste cose sono condizionate dal fatto che su IndieDB puoi mettere i giochi dopo che li hai inseriti su Desura, che dovrebbe essere una roba tipo Steam per l'indie, sì, no? è comodo anche per quello IndieDB. Cioè, giusto quello che va su IndieDB, su ModDB e su Desura. Esatto, è quello lì la cosa che può magari aiutare, che sì, è un portale che vende giochi e non ti chiede soldi in cambio come fanno altri. No, no, infatti, cioè lo trovo scomodo, ma lo consiglio comunque IndieDB perché è un buon portale. E una cosa, i limiti di upload sono veramente alti, tipo 2 giga e 8 puoi mettere i file, fino a 2 giga e 8. Ma guarda, il massimo che ho fatto è stato con One Day 12 mega, mi sembra, e quindi problemi del genere fortunatamente non ce li ho. Invece purtroppo per me è un problema ricorrente. No, anzi GameScared è venuto 3 mega. E GameScared è proprio successo a palazzo, cioè, chi su Google trovi qualsiasi cosa. Anche è assurdo. Anche Frank Expo gli ha dedicato uno delle slide, video su YouTube ce ne sono tantissimi, recensioni sui blog indie. È stato, guarda, veramente un successo inaspettato. E volevo dirti, non so, hai qualcosa in particolare da dire su... la tua tendenza all'effetto cinematografico, perché non so, in I'm Scared ad esempio, i momenti di panico sono resi dalla penombra, dai suoni, dai colpi di scena, diciamo, quando apri qualcosa c'è il sangue che cola, oppure attacchi alle spalle. Questa cosa qui, com'è che la progetti? Cioè, com'è che progetti la costruzione cinematografica del tuo gioco? Guarda, parto semplicemente pensando che il modo migliore di spaventare il giocatore è stranirlo. Se stranisci il giocatore, hai fatto un bel passo. Perché diceva bene il primo Silent Hill quando diceva che la paura dell'ignoto è la paura migliore. Sì, esatto. Il punto è proprio quello, se tu riesci a stranire il giocatore mentre sta giocando, sconvolgendogli un attimo il mondo che ha intorno, allora cade subito nel panico. Ed è un'arma fondamentale, cioè ho realizzato i crash di I'm Scared proprio basandomi su questo progetto, su questo concetto. Che comunque anche in One Day the World ci sono le stanze con le inquadrature zoomate, le stanze completamente nere dove il protagonista urla, sembrano cutscene quasi. Sì, più o meno. Eppure sono inserite nella parte giocabile del gioco, cioè tu vai avanti in queste stanze zoomate, molto, appunto, come ho già ripetuto tante volte, cinematografica la tua costruzione del gameplay. Sì, più o meno. Guarda, penso di aver realizzato le cutscene più o meno in game, inconsapevolmente, Sì. più che altro perché sono del parere che se stai giocando, la cutscene ti estranea un po' dal gioco. È una pausa. C'è una pausa proprio nel gioco dove fai, ah ok, adesso vediamo che succede. Se invece accade mentre stai giocando, è diverso, è più diretto, è più rimani dentro il gioco. Sì, infatti i tuoi giochi sono la cosa più importante, i tuoi giochi forse addirittura è la narratività, è proprio una narrazione continua. Sì, cerco costantemente di far accadere cose e a volte anzi ho quasi paura che infilo troppa roba. Anche One Day the World può essere visto come una storia, proprio una storia che va avanti. Cioè, ok, va bene, un platform, salti, risolvi enigmi, però è come se tu in un fumetto saltassi, quando risolvi l'enigma, salti alla vignetta successiva. Ma sì, One Day the World vuole raccontare una storia in effetti, è proprio quello Sì. l'obiettivo. Il platform è semplicemente la chiave che porta avanti la narrazione. E direi che ci sei riuscito perfettamente. E io ti ringrazio. Maledetti. Sto guardando gli screenshot di One Day at the World e ho trovato la stanza che odio più di tutte. Qual è? Quella con che devi saltare gli spuntoni che sono a pavimento, le scale, attivare la leva, ritornare giù. Nella torre. Sì, una delle ultime della torre. Ci avrò messo 10 minuti, ci avrò messo. La cosa divertente è che inizialmente anch'io impiegavo 10 minuti. E Cioè, quando te cinque inizialmente minuti li ho eri. passati facendo la stessa mossa e morendo nello stesso modo. Scusate, veramente. Sì. Però no, Non è bella. ma Bella come cosa. hai impostato il gameplay in modo che non sia snervante morire, perché comunque torni subito. A parte che in quella stanza fortunatamente hai messo un checkpoint quando arrivi alla leva. Se Sì, altrimenti. no, uno si ammazza. Ma guarda, c'è chi si è ammazzato per molto poco. Per molto, Ok. molto, molto meno. Ah, hai già delle vittime sulla coscienza, quindi. Molte vittime, purtroppo. Saranno C'è chi nel ha prossimo iniziato giro. ancora prima del primo boss. Le meteore. Non mi ricordo. Quando Primo salti boss sulle è il Sky meteoriti. Baby, quello che tutti pensano ci abbia un secchiello in mano e lascia cadere le gocce. Sì. Che non è un secchiello, è tipo una sorta di tizio con le mani in faccia, ma essendo io un grafico molto scarso, l'effetto non è venuto come Il desideravo e è molto fuorviante. secchiello no, io non mi ricordo come l'avevo battezzato quel mostro quando giocavo, però mi ricorda molto quelli di Silent Hill per l'anatomia. Silent Hill è stata una grande fonte di ispirazione per One Day. Ah, ma per E l'horror, anche il videogame horror Silent Hill è la Silent Hill è la Bibbia. meraviglia fatta videogioco, specie i primi quattro capitoli. Almeno i primi tre Silent Hill, poi dopo lasciamo Anche, perdere. guarda, anche il quarto ha i suoi pregi. Certo, ha un gameplay odioso, un protagonista che non sta né in cielo né in terra Yeah, perché sì, è è bidimensionale. carismatico di un muro di cemento, ma è bello anche il quarto. Ok, a te è Forse io sono. piaciuto. A te è piaciuto. Io del 4 salvo solo Sullivan. Il cattivo. Ecco, l'errore che non bisogna fare in un videogioco è che il cattivo sia più carismatico del protagonista. Silent Hill 4 non è più carismatico. È l'unico personaggio di cattivo. Sì, in effetti sì. È Sullivan l'unico è un 10. personaggio fatto veramente bene perché Sullivan è splendido. Anche Sì, se è su tutti i più. Silent Hill io amo il secondo perché il secondo è meraviglioso. Poi sai cos'è la cosa bella? Che se tu li hai giocati bene i primi tre, Sullivan te l'hanno già anticipato negli altri. Se tu Il li hai giocati secondo più capitolo, certo. è fenomenale sta cosa. È splendido. Infatti. Outside Apartment trovavi l'articolo su Sullivan che aveva ucciso una persona con cui io. Era lì, non era nell'ufficio dell'Alchemilla. No, era nei Woodside, anche perché l'Alchemilla al secondo capitolo non c'è. Ah no, c'è il Broken Even lì, come si chiama l'altro No, squadro. no, no, no, non era nel Brookhaven che veniva citato Sullivan, era proprio negli appartamenti del 2. Ah, ok. Che poi tra l'altro, vabbè, è lì un casino, perché poi il padrone dell'albergo di Silent Hill 4 sarebbe il padre di James. Teorizzato, sì. Sì, teorizzato, perché il quadro che ha in stanza il protagonista, che rappresenta Toluca Lake, l'ha regalato. Vabbè, sì. Tutti C'è tutto un giro di teorie, sì. questi Silent Hill è viaggi bello anche mentali per che quello. sono meravigliosi. Ecco, vedi una cosa bella di Silent Hill? Il fatto che niente è dato al caso. Tutto ha Sì, un senso. sì. Almeno fino al qua, fino allo 4-0. Dopo il 5 e il 6 lasciamo perdere, sorvoliamo. Vabbè, ma il punto è proprio che Silent Hill è stato passato da mani a mani a mani. Anzi, io mi trovo molto soddisfatto con Shattered Memories e Downpour, che reputo bei capitoli. Ah, Shattered Memories ho giocato anch'io. Sì, è carina come reinterpretazione, sì. Veramente bello Shattered Memories, è diverso, è veramente diverso. Sono riusciti a dare un senso a una sorta di remake, sono riusciti a dare un senso. Un altro punto di vista. Ma la cosa bella di Shattered Memories è che è molto più simile al primo di quanto non sembri. Semplicemente tutto il tragitto che fa il protagonista, tu prova a paragonarlo, sì, al tragitto che fa Harry in Silent Hill 1. Sì, sì, quello sì, ma è fatto apposta, perché diciamo è come se volessimo rendere Silent Hill 1 come una storia verosimile, Shattered Memories fa questo. Cioè la storia di Silent Hill 1 è stata tutta una ricostruzione mentale. Ah, niente spoiler per chi non deve giocare. Sì, infatti lasciamo perdere. Però hai capito, no? Diciamo è un tentativo di rendere Silent Hill 1 una storia vera, più o meno. Sì, è vero. L'unico problema lì è la battaglia, se vogliamo chiamarla, che è una gara agli abbracci con dei mostri. Vabbè, sono teneri, dai, carini. Sì, ok, scappare è bello, però a un certo punto diventa una rottura di balle. Sì, il brutto di tutti i Silent Hill usciti dopo il quarto è che non spaventano, in effetti. No. Cioè, troppo strano. Che io è difficile che io mi spavento, infatti neanche i primi sono riusciti a spaventarmi, però... Come no? Il gatto non ti ha spaventato? Del primo, dici? Sì, quel maledetto gatto. te sei lì, ma che cacchio sta lì dentro? Ah, c'è il gatto, mo. Ma in effetti il primo è quello che mantiene più atmosfera di tutte. Sì, sì. Io adoro il 2 per aiutare anche... La grafica retro aiuta anche molto, Questo concetto che ho sviluppato in Scared non è solo un amore per i pixel, era proprio una dimostrazione che meno capisci di quello che hai intorno e più sei spaventato, cioè si ritorna sempre. Mi ha fatto venire in mente una storia, ti racconto un aneddoto, no? Vai, prego. Ho giocato Shattered Memories e mio fratello l'ha consigliato a un suo amico, no? Allora il suo amico va a GameStop e chiede al commesso: ah, io vorrei Silent Hill Shattered Memories. E come si fa? Silent Hill Uncoming. E lui: no, lo Shattered Memories. E lui: ma guarda che l'ultimo Silent Hill si chiama Silent Hill Uncoming. Praticamente il commesso non sapeva nemmeno che esisteva lo Shattered Memories. È un peccato, cazzo, perché Shattered Memories è bello, Uncoming... è una cosa commerciale. Ma anche Uncoming ha i suoi pregi, ma non quanto Shattered. Sta lì il problema. Ma adesso, l'Uncoming è lasciamo stare. Silent Hill 2 lo rifacciamo male, sostanzialmente. Adesso che la trilogia è chiusa, come facciamo a usare ancora la città? Rifacciamo il 2, sostanzialmente. Sì, vabbè, ma ormai Silent Hill, tutti quanti pensano, vabbè, Silent Hill è un purgatorio, prendiamo un personaggio, nascondiamo i suoi crimini, buttiamo nella città. Anche il fatto che nel film Pyramid Head viene usato come mostro rampa. Quella cosa è terribile. Allora, è un angelo legato a una persona sola. Allora, tu già hai fatto male a parlarmi di Silent Hill, perché poi io parto in quarta e non mi fermo più. Se poi parli del film e di come hanno reso Pyramid Head... ma di come ha reso tutto. Cazzo! No, vabbè, il film all'inizio, i primi 10 minuti dici, cavolo, hanno fatto uguale l'uno. Ma, cioè, anche in pezzo con i bimbi minchia che ti saltano addosso. Cioè, il film, dici, è bello. Peccato che si rovina dalla comparsa di un personaggio, Anna. Ok. Allora, prima cosa, chi è Anna? Da dove è uscita Anna? Perché è brutta? E ti poni le domande. No, e poi l'altro... va avanti con Anna e si rovina. Cioè, serve solamente a farsi strappa la pelle quel personaggio. Sì, no, viene anche spugliata prima. Beh, perché Pyramid Head è anche un noto pervertito, visto che si fa i manichini. Vabbè, ma almeno i manichini se li faceva con un certo senso in Silent Hill. Con un certo stile. No, vabbè, il motivo per cui si faceva i manichini è perché lui rispecchia... silenzio, soprattutto. Ah, dai, no, dobbiamo dirlo. No, non si può. Diciamo solamente che... Silent Hill 2 è uno, forse è l'unico survival horror che merita un 10 su 10. La storia è meravigliosa. Sì, assolutamente, perché Silent Hill 2 è la perfetta concezione di sesso e morte. è perfetto. No, ma se, cioè, ci sarebbe da parlare di ore per ore di Silent Hill 2, veramente meraviglioso. Concordo. Potrebbe essere il gameplay, potrebbe anche non esserci in quel gioco, il gioco sarebbe meraviglioso comunque. Sì, Silent Hill 2 come film renderebbe benissimo, certo, non come film americano. Ovviamente, perché se diventa come il film di Dylan Dog. Gli americani fanno i film di Dylan Dog, pensa te. No, Chris, io non l'ho visto e non voglio vederlo. Io non guarderò Guarda. mai quella boiata, non la guarderò mai perché sono un L'unico amante di... motivo per guardare i film è che c'è il wrestler Kurt Angle nella parte di Lupo Mannaro. Ma per favore, dai. Ma È che cos'è? terribile. Cioè, tralasciando che non metti Groucho, ci hai fatto un passo falso, falsissimo. Poi rendi Dylan Dog un fighetto idiota Che e fai vive, la... non vive a Londra, non è un ex Bobbis, cioè, tutto sbagliato, non è vegetariano, non è un no, ex alcolista lo è, ma chi se ne frega. Non è Dylan Dog. Sì, ha solo il vestito, è il nome. Cioè, hanno sputato sulla tomba dei Bonelli. No, più che sì, vabbè, lui non credo fosse tanto, magari su quella che ancora non è piena di sclavi, incrociamo le dita, facciamo le corna. Lasciamo perdere proprio. Hanno sputato più su sclavi, però sì, comunque, sorvoliamo. Ma torniamo alla tua intervista perché qui stiamo veramente uscendo. Siamo super off topic. Riccardo è andato via addirittura. Riccardo, scusa. Riccardo, ti abbiamo spoilerato film e videogiochi. Abbiamo tranquilli. litigato. Va bene. Quindi sappiamo che sei un affezionato se di quelli seri di Silent Hill, questa è una Guarda, buona ci abbiamo cosa. messo mezz'ora per capire quindi che è un amante dei film horror. No, di Silent Hill. Il film di Dei Silent Hill. giochi e film horror. Ok. Quindi. Ah, ok, siamo arrivati verso la fine. Allora, e invece il gioco Slime che ho visto sul tuo sito lo continuerai? Sì, Slime è ancora in cantiere e assolutamente non voglio farlo diventare vapore perché secondo me ha buone potenzialità. Calcola più o meno alla stessa meccanica, penso dopo hai detto proverai, quindi proverai sulla tua pelle la brutta esperienza. Platform puro. Sì, abbastanza. E Slime è totalmente un platform, storia molto semplice, tanti livelli, tante possibilità di gioco. Voglio renderlo un'esperienza piacevole a differenza degli altri giochi che ho fatto. Ed è anche per questo che sta ancora in cantiere, perché voglio lavorarlo bene. Quindi stai lavorando più di un gioco alla volta adesso. Sì, ho questo brutto vizio. E tuttora ho in cantiere Slime, a cui sto lavorando. E sto lavorando a una versione migliore di One Day. E ad una versione. Cioè, guarda, One Day non è propriamente una versione nuova. One Day Retold sarà una ripresa del primo One Day con molte cose in più, con i bug corretti, con i salti millimetrici tolti. Quindi potrete fare sonni tranquilli col respawn impostato meglio perché prima rimanevi sul mostro morivi, rispawnavi, cadevi sul mostro morivi. Il gioco diventa prova di bestemmia dopo. Esattamente, no, sto semplicemente cercando di renderlo un attimino più professionale. Rendendo più onore al primo gioco che ho fatto. Beh, sono affezionatissimo a One Day. E poi. Un'altra domanda, la produzione quanto dura normalmente a posizione di un tuo gioco? Dipende da quanto il gioco mi prende al momento, dipende dai limiti che mi impongo da solo. Cioè, ad esempio, Collapse l'ho creato in 4 giorni perché mi ero imposto il limite. Infatti, l'ho tirato fuori pieno di bug e al giorno del rilascio ho fatto un casino tutto il tempo. Caricando costantemente versioni nuove, un incubo. Ne so qualcosa. Terribile No, proprio. però te non rilasciavi versioni nuove. No, adesso sì che le rilasciavo, però ci Cioè, a mettevo. distanza di qualche mese. Ma non è vero. Dipende solo da quanto il progetto cattura la mia attenzione. Se lo fa bene, allora c'è più possibilità di un rilascio veloce. Ad esempio, I'm Scared l'ho finito in quasi un mese. Che sì, effettivamente è molto breve, ma essendo stata la prima esperienza che ho fatto col 3D, inizialmente è stato un incubo. E Adesso questa domanda la devo fare perché è del nostro sponsor. Che cosa ne pensi di Frank Expo? Ma penso sia un peccato che sia ancora poco conosciuto. Cioè, sarebbe bellissimo vedere caricati i giochi più spesso. E piccola cosa personale, penso che la grafica sia troppo pesante per gli occhi. Cioè, c'è troppa roba sullo schermo, secondo me. Se fosse distribuita in maniera più omogenea, potrebbe catturare ancora più persone, perché è un portale valido. Infatti i download di I'm Scared sono molti su Frank Expo, Mi pare si giravano intorno alla, non ricordo. sì, dai, non so male, credo che tutta l'utenza l'abbia scaricato. No, è anche quello, spero che arrivino più persone su questo. È il tuo microfono che sta facendo tipo bufera? Ok. Sì, mi sembra di sì. Sta Mi facendo sa che bufera? è Ok, un sì, uragano. c'era Va meglio adesso? il subwoofer. Sì, è un po' meglio. È che nell'occhio del ciclone a volte si sporge dalla finestra. No, vabbè, ho detto domanda dello sponsor. In realtà è che Ma l'avevi Frank già fatta questa Expo, domanda più o meno, sì. diciamo che è stato. Sì, lo so, però ho dovuto fare più nello specifico. È stata. Sono stati. Lo sta, è stato lo staff di Frank Expo a segnalarmi, anzi, a darmi il tuo contatto per l'intervista. E quindi mi No, sembra ma lo staff è giusto. veramente gentile. Non ti sento più. Cioè, mi ha trattato, Ha mi detto ha che lo staff è molto proposto gentile. di pubblicare il Sì, ma gioco. io non lo sento. Non mi sentite? C'è Sì, bufera? no, no, niente bufera. Ah, meglio così. Niente, dicevo che lo staff di Frank Expo è gentilissimo, anzi, mi ha contattato Sì. personalmente, mi ha proposto di pubblicare il gioco. Sono veramente bravi. La bufera di nuovo. Ah, ricominciamo. Quindi chiudiamo con l'ultima domanda. Volevo chiederti, che praticamente hai già risposto, bene o male, i progetti per il futuro. Quindi c'è una nuova versione di One Day. Ecco, Attualmente sto finendo di. non ti sento più, maledizione. Il Adesso? problema è che se non ti sento, cioè il problema è che se non ti sento non ti registra il programma che sta registrando la conversazione, quello. Adesso funziona? Funziona, Bassino. ma ti sento basso. Adesso? Sempre basso. Ok, è una causa persa, cavolo. Morto. Morto. Mad. No. Adesso? Sì, più o meno. Più o meno, dai. Allora, riproviamo, più o meno. Non, no, è troppo basso, non ti registra così. Chiedo scusa, ma sto microfono non ne ho. Beh, comunque eravamo alla fine, quindi dai, possiamo chiuderla qua, visto che ci sono problemi tecnici. Allora, facciamo così. Aspetta, mi è arrivato un messaggio. No, no, no, ci senti ancora? Se mi senti, scrivimi. Ok, perfetto. Mi sente. Prova a urlare nel microfono. Ok, gli urli si sentono, quindi ne approfittiamo per fare il saluto finale, visto che le urla si sentono. Devi urlare il saluto ai nostri ascoltatori. Cioè, solamente gli urli sentite. No, no, Ora ti urlare, sento. non parlare. Ora ti sento, però. Urla pollo. No, non può urlare perché ha gente in casa, probabilmente. Un secondo che ci sta arrivando un messaggio. Allora, parlo io. And I quote. Che dire? Ringrazio tutte le persone che credono nei miei lavori. Ovviamente ringrazio voi ragazzi per questa piacevole chiacchierata, tra parentesi. Altra parentesi, l'amico Segone Games roccheggia. No, questo non l'ho detto io. What? C'è Lo immaginavo, sai. un po' di confusione qui su Skype. Strano, vero? Se hai altri messaggi a riferire, io sono ancora pronto a leggerli. Ma scrivili pubblici nella conversazione, così abbiamo un riscontro ufficiale. Direi di avere detto tutto. No, no, adesso dico roba vera, Riccardo, non invento niente. Direi di aver detto tutto, faccia che sorride. Sono le 4:03 del pomeriggio. Ricordate, gente, Mega Man. Mega Man roccheggia. Ecco, ora hanno un riferimento spazio-temporale di dove sì, stiamo registrando. Sono le 4:03 del pomeriggio di un... Che giorno è oggi? Lunedì. Ah, questo non lo so. È lunedì, suppongo. Vabbè, ok, lasciamo per. Quindi, Mad ci saluta qui perché purtroppo è caduta la linea. È normale quando si abita sulla faglia di Sant'Andrea. La puntata la chiudiamo qui. Se volete provare i giochi di Mad, li trovate, come già detto, su Game Jolt, IndieDB, Frank Expo, nostro sponsor ufficioso, sulla sua pagina Facebook che si chiama My Madness Work, e anche quella su Altervista, cioè, ma come ha detto non aggiorna spesso, quindi cioè, ha un sito su Altervista che si chiama My Madness Work. E i titoli dei giochi sono One Day is the World, I'm Scared, tutto attaccato, e l'altro, l'ultimo, si chiama... non me lo ricordo più. Qualcosa con l'app. Purtroppo non me lo riesco a ricordare. Me lo sta scrivendo. Aiutatelo. Collapse, collide, ecco, che si trova sulla sua pagina Facebook, se volete provare la versione che suppongo sia beta perché c'è scritto che è piena di bug. In costante aggiornamento. Se volete aiutarlo a ritrovare i bug, provate questa versione. E niente, chiudiamo qui la puntata di Ask the Maker, sperando che ce ne siano altre, speriamo. Aspetta. Vai, gente. Questo è Mad. Anche Gira ci sta scrivendo qualcosa. Grandissimi, perfetto. No, vai, City, sì. Devo fare anche lui una dedica. Vi dico solo che se facessimo ancora Triforce farei un episodio parlando di Neverwinter Night 2 e delle sue due espansioni che mi hanno... quello volevo parlarci anch'io, adesso stavo installando... No, sono mie! Ah, ho scoperto di avere in casa anche la prima espansione. Ok, no, dai, chiudiamo l'episodio, che sennò qui non chiudiamo più. Devo andare in fumetteria a salacquare tutti i miei risparmi. Addio. Vario Punk, vi saluta, Buia e Rixka. Ciao. Grandissimi.